Appena giunti al potere, Manin e Tommaseo si trovarono in contrasto su un punto importante. Si trattava delle basi stesse del governo che era stato appena proclamato. Tommaseo chiedeva con insistenza che le province, che spontaneamente avevano offerto la loro adesione, fossero invitate a mandare a Venezia deputati che formassero un'assemblea legislativa o costituente e impersonassero il potere esecutivo. Manin temeva, in un momento che esigeva soprattutto energia e prontezza di interventi, quella tendenza a disperdersi in discussioni, quelle andature lente, timide, che sono la caratteristica delle assemblee senza esperienza. Era dell'avviso che occorresse concentrare il più possibile il potere nelle mani di una sola persona. Era questo, secondo lui, il solo modo per far fronte alle difficoltà della situazione. Manin dimenticava che soltanto agli uomini di genio è consentito ragionare così e rimettersi alla propria energia, alla propria decisione, anziché ai salutari brancolamenti della discussione. Ricusando di valersi dell'aiuto di un'assemblea, egli accettava risolutamente una responsabilità schiacciante, senza che nessuno gli fosse grato per la decisione, la quale, certo dettata da un errore di patriottismo, fu da altri attribuita ad ambizione. Tutto quello che Tommaseo riuscì a ottenere fu la formazione di una consulta di Stato, nella quale dovevano figurare, con i tre deputati di Venezia, tre rappresentanti inviati da ciascuna provincia. L'editto di formazione di questa consulta fu emanato il 1 aprile e la sua nomina fu fissata il 10 dello stesso mese. Il governo della Repubblica di San Marco, il nome fu serbato per non ferire i sentimenti popolari, fu così costituito. La struttura del governo rispondeva abbastanza male alle esigenze della difficile situazione in cui avrebbe dovuto operare. Un ministero di cui era presidente Manin e una consulta di Stato. Queste erano le sole rotelle dell'ingranaggio. Manin, oltre alla presidenza del Consiglio, aveva il portafoglio degli affari esteri. Tommaseo era ministro dell'istruzione pubblica, Camerata delle finanze, Pinkel del commercio, Solera, Paolucci, Paleocapa si erano divisi guerra, marina, interni e lavori pubblici. Infine un artigiano, Toffoli, era ministro senza portafoglio. Istituendo questi vari ministeri, nulla si cambiò all'edificio amministrativo di cui costituivano il fastidio. Perché Manin aveva ritenuto che il carattere provvisorio del governo gli vietasse ogni riforma delle istituzioni. I ministeri si trovarono dunque a funzionare, mantenendo l'apparato amministrativo come il governo austriaco l'aveva lasciato. Quanto alla consulta di Stato, essa incontrò sin dall'inizio un ostacolo alla sua influenza nelle pretese dittatoriali del Presidente della Repubblica. Era molto se Manin stava ad ascoltare le riflessioni dei rappresentanti delle province. Spesso li interrompeva, gettando là parole di una bruschezza tutta napoleonica. Qualche volta, anzi, rifiutava di ricevere i membri della consulta o rivolgeva loro in pubblico aspri rimbrotti. Erano tante ferite di cui non risentivano soltanto i deputati. Essi ebbero l'effetto di staccare sempre più le province, dalla capitale. Eppure mai l'unione sarebbe stata più necessaria al Veneto. Proclamando la Repubblica, Venezia aveva destato sospetti e urtato la suscettibilità degli stati monarchici d'Italia ed Europa. Il Piemonte vedeva in quella proclamazione il rifiuto anticipato di far parte del Regno d'Italia settentrionale, per la cui costituzione così fervidamente ci si stava impegnando. I sostenitori dell'unità d'Italia rimproveravano a Venezia di aver alzato una bandiera che non essendo quella degli altri stati della penisola. Sembrava, mentre si era di fronte allo straniero, un pericoloso invito alla discordia. La Lombardia, o per parlare più esattamente, la maggioranza dei lombardi, già risoluta a unirsi al Piemonte, temeva d'essere chiamata a scegliere tra l'unione con il Piemonte e l'unione con Venezia. I lombardi sentivano che il loro interesse consigliava il primo partito, mentre le loro simpatie li trascinavano verso il secondo, ce l'avevano con Venezia che li aveva messi in quell'alternativa. L'atteggiamento dell'Italia era dunque freddo e imbarazzato nei confronti della nuova Repubblica. Anche la Francia si limitava ad assicurazioni poco significative e sembrava riservare la sua benevolenza al futuro grande regno dell'Italia del Nord. quanto alle altre potenze europee, non nascondevano il loro malumore, che fu inasprito ulteriormente dagli articoli poco favorevoli della stampa piemontese. Le popolazioni della sponda orientale dell'Adriatico si erano ricordate dei legami che le univano alla loro antica capitale, e la vita nuova che pulsava nella città delle lagune destava in loro simpatie che si manifestavano con dimostrazioni rumorose. Tali dimostrazioni fornivano pretesto a coloro che accusavano Venezia di disegni ambiziosi e le attribuivano sogni di conquista. In Piemonte c'era un gruppo che non perdonava a Venezia di non essersi unita alla monarchia piemontese subito dopo l'espulsione degli austriaci. E così niente si trascurò per far sentire a Venezia le difficoltà che si era procurata e per mettere in risalto gli errori dei suoi governanti. Questi errori non ci si accontentava di notarli. Venivano esagerati e, come si vedrà, erano qualche volta infondatamente supposti. Citerò in proposito soltanto due esempi che mi sembrano però del tutto decisivi. Il ministro degli affari esteri della Repubblica Veneziana, appena insediato, ossia lo stesso Manin, aveva rivolto una nota a parecchi sovrani d'Europa, tra gli altri al re di Grecia e alla regina Vittoria. Nella prima di quelle lettere, il ministro rammentava al re Ottone gli antichi legami che un tempo univano certe province del regno di Grecia alla Repubblica Veneta, e gli formulava il voto che nuovi legami subentrassero agli antichi e l'amicizia di due nazioni libere e indipendenti succedesse ai rapporti meno equi delle antiche colonie della madre patria. Il re di Grecia rispose con una lettera garbata e il ministro veneziano poté ritenere che quello scambio di messaggi non avrebbe avuto altro seguito. Non doveva essere così. Ci fu un moto nelle isole Ionie soggette alla Grecia e il grido Viva Venezia si fece sentire negli assembramenti. Non era un rimpianto della dominazione veneziana, bensì un attestato di simpatia per le idee nuove che trionfavano sulle sponde dell'Adriatico. Un giornale di Milano riferì il fatto e si domandò a questo proposito se Venezia avesse forse voglia di rivendicare le antiche conquiste. Un giornale veneziano riprodusse l'articolo del giornale di Milano. Il ministro degli affari esteri, cioè Manin, ritenne che bastasse protestare tra gli amici contro insinuazioni tanto assurde. Ai quesiti che gli furono posti sull'argomento si limitò a rispondere che nessun veneziano che non fosse uscito di senno avrebbe potuto vagheggiare il ritorno a uno stato di cose completamente e irrevocabilmente distrutto. Sarebbe altrettanto irragionevole per Venezia, aggiungeva, pretendere di conquistare le isole Ionie quanto voler piantare la sua bandiera sui minareti di Costantinopoli. Nonostante questa risposta, in assenza di una smentita ufficiale, alla Repubblica di Venezia rimase la taccia di aver pensato di contendere all'Inghilterra il possesso delle isole Ionie. Non ci si peritò di citare addirittura un preteso proclama che il governo avrebbe indirizzato alle popolazioni di quelle isole per spingerle a scrollarsi di dosso il giogo e a riparare sotto la tutela molto paterna e benevola del leone di San Marco. Non occorre dire che un proclama simile non c'era mai stato. Un'accusa dello stesso peso fu pure rivolta a Venezia a proposito dell'Istria. Dal XIII secolo, in effetti, una parte dell'Istria si era data a Venezia e fino alla caduta della Serenissima Repubblica era rimasta sua. L'altra parte era dipendente dall'Austria. Nel 1817, motivi di convenienza amministrativa portarono all'unione delle due province dell'Istria in una sola provincia austriaca con capoluogo Trieste. Ora Trieste e il suo territorio fanno parte della Confederazione Germanica, ma l'Istria veneziana, benché riunita all'Istria austriaca per interni legami amministrativi, benché subordinata a Trieste, come ogni provincia al capoluogo, non è mai entrata nel corpo della Confederazione Germanica, non gode di nessuno dei privilegi spettanti a membri di quella associazione e non ha mai mandato deputati alla Dieta tedesca. Questa parte dell'Istria parve risentire il contraccolpo della rivoluzione veneziana. In parecchi distretti si insorse, si cacciarono le guarnigioni austriache, si espresse la volontà di riunirsi alla Repubblica da cui erano stati separati soltanto con la forza. Il Di qui un concerto di rimproveri e di invettive contro Venezia, accusata di attirare sull'Italia intera con la sua folle propaganda la collera e la vendetta dell'Europa, a cominciare dall'Inghilterra per finire con la Confederazione Germanica. Un'altra accusa venne a colpire ancora non Venezia, ma uno dei rappresentanti più noti del suo governo. La Croazia aveva di recente impugnato le armi contro la dominazione magiara. Tomaseo, nato in Dalmazia, in un paese slavo, aveva titolo per rivolgere ai croati parole fraterne e per cercare di distoglierli da una lotta il cui esito non riteneva favorevole alla causa italiana. E lo fece. Non appena i giornali ostili alla Repubblica Veneta riportarono, commentandolo, l'appello di Tomaseo ai croati, non ci furono per questo ministro bastevoli sarcasmi e ingiurie. Il governo repubblicano, già accusato di voler conquistare le isole Ionie e l'Istria, fu additato all'indignazione di un certo numero di italiani come il futuro alleato dei croati. Tutte queste accuse ridicole non meriterebbero di essere rammentate se non fosse per il fatto che costituiscono precisi indizi del risentimento causato nella maggior parte degli stati italiani dalla proclamazione della Repubblica di Venezia. Questa proclamazione era stata interpretata, si è già detto, come l'espressione di una tendenza separatista. In fondo, però, né Venezia né il suo governo volevano restar fuori dal progettato regno dell'Italia settentrionale. Il proclama, emanato dal quartier generale piemontese all'entrata di Carlo Alberto e del suo esercito in territorio lombardo, era redatto in termini che lasciavano ai veneziani la possibilità di far causa comune con l'Italia del Nord, senza far sacrificio immediato dei loro orientamenti repubblicani. Il governo veneziano colse al volo l'occasione che gli era offerta dalla dichiarazione del re del Piemonte. Uniamoci per espellere lo straniero, disse nella sua risposta a Carlo Alberto. Formiamo in queste belle pianure, ancora affollate dallo straniero, un'alleanza che cimenteremo più tardi nelle città liberate dall'oppressione austriaca. Combattiamo oggi e quando saremo liberi convocheremo la nazione e la inviteremo a pronunciarsi sul suo avvenire. La prova che questo linguaggio era serio sta nei passi amichevoli subito compiuti dal governo veneziano presso il governo lombardo, al quale inviò un rappresentante. Milano, Parma, Modena e tutte le città liberate risposero d'altronde a Carlo Alberto nello stesso modo. Quel che era chiaro negli indirizzi di quelle città era pur chiaro nell'indirizzo di Venezia. Peraltro, nei ducati e in Lombardia ci si era astenuti da ogni presa di posizione a favore di questa o quella forma di governo. L'errore di Venezia era stato quello di aver proclamato la Repubblica. Venezia si era dunque attirata la malevolenza dell'Alta Italia. Poteva sostenersi da sola? All'indomani di una rivoluzione, alla vigilia di una guerra accanita, come sono di solito le guerre dette di indipendenza, Venezia doveva rivolgere ogni sua cura alla buona organizzazione delle finanze e dell'esercito. La Guardia Nazionale fu costituita come d'incanto e le ricche collezioni dell'arsenale furono in parte impiegate per armare il popolo veneziano. L'effettivo, che così si ottenne, raggiunse soltanto i 6.000 uomini, non essendosi potuti costringere al servizio regolare della milizia cittadina i lavoratori del porto e i pescatori. D'altro canto, la partenza degli austriaci aveva lasciato in città circa 1.500 soldati italiani che prestavano servizio nell'esercito imperiale e che i loro comandanti, lasciando Venezia, avevano congedato. Questi 1.500 soldati potevano bastare ad assicurare il servizio interno della città, mentre la Guardia Nazionale riceveva un certo grado di istruzione militare. E si formavano il nucleo attorno al quale ci si riprometteva di raccogliere le nuove reclute, volontari e altri, per piegarle alla disciplina e alle privazioni della vita militare. Due cause fecero purtroppo fallire questo giusto programma. Anzitutto lo spirito di insubordinazione dei soldati congedati dall'Austria. In secondo luogo le tendenze separatiste delle città di terraferma, ove la maggior parte dei soldati aveva la propria famiglia. La terraferma cominciava a pronunciarsi vigorosamente contro Venezia, di cui si diceva condannata a pagare le follie. Queste lamentele giunsero all'orecchio dei soldati, che stanchi di una carriera accettata controvoglia, si mostravano sempre più impazienti di lasciare Venezia per andare a vigilare sulla sicurezza delle loro famiglie. Avendo le province inviato deputazioni a Venezia per esprimere la loro adesione alla Repubblica, i membri stessi di quelle deputazioni contribuirono ulteriormente, con discorsi imprudenti, a eccitare tra i congedati dall'Austria quel sentimento di impazienza e giunsero persino a far pressione sui soldati perché li riaccompagnassero sulla terraferma e non indugiassero più a lungo a Venezia. Da allora fu facile prevedere che i progetti del governo per la riorganizzazione della forza militare avrebbero incontrato vivace opposizione. Ben presto Venezia diventò in effetti il teatro di scene desolanti. Messi giornalmente in contatto con la nuova Guardia Nazionale, i soldati, pronti alla rivolta, cercavano solidarietà tra quei cittadini armati. Ogni giorno c'erano nuovi scandali. Guardia Nazionale e soldati barattavano in segno di fratellanza qualche parte della loro uniforme e passeggiavano poi bizzarramente agghindanti con insegne disparate nelle strade della città, proferendo minacce di sedizione. L'indisciplina era grande. E l'influenza di questi tristi esempi sulla Guardia Nazionale nel suo complesso poteva avere le più deplorevoli conseguenze. Il governo sarebbe stato costretto a congedare le sole truppe di cui disponesse a Venezia, in un momento in cui 2 o 3 giorni di marcia soltanto separavano l'esercito austriaco dalla capitale. Era la domanda che già ci si poneva, allorché nuovi eccessi della soldatesca resero urgenti le decisioni del potere. La rivolta militare che Venezia prevedeva già da qualche giorno finì con l'esplodere nella caserma dei Tolentini. I soldati che vi si trovavano inviarono a Manin una sorta di ingiunzione ad andare ad ascoltare i loro motivi di lagnanza. Manin era assente da Venezia. Uno dei ministri suoi colleghi, Toffoli, acconsentì a recarsi al focolaio della rivolta. La folla, accalcata sulla strada della caserma, temendo per la vita del ministro, cercò invano di trattenerlo. Toffoli rimase fermo nel suo proposito. L'aspetto degli insorti era tutto meno che rassicurante. Il disordine dei loro vestiti, la luce sinistra dei loro sguardi, i loro passi incerti, i loro discorsi sconnessi, tutto in loro denunciava un'ebbrezza che poteva trascendere agli eccessi più colpevoli. Toffoli, tuttavia, si fece avanti senza esitare, parlò con fermezza, con dolcezza. Fu ascoltato con rispetto dapprima, poi con entusiasmo. Quel che chiedeva ai soldati era ancora qualche giorno di dedizione alla Repubblica di San Marco. Lo avrebbero rifiutato? Posta così, la domanda non permetteva che una risposta sola. Al grido «Viva Toffoli, viva Manin!» fu acclamato il ministro, che venne portato in trionfo alla gondola. La sera stessa, la popolazione apprese con gioia la felice e pacifica soluzione del difficile caso. Altro e più grave episodio il giorno dopo. Questa volta furono i granatieri, 800 di numero, a ingiungere a Manin di recarsi di persona alla caserma di San Salvatore per portare loro il congedo. Manin era tornato a Venezia, ma fu di nuovo Toffoli a dover accettare l'incarico di parlamentario. La sedizione della caserma di San Salvatore era più grave di quella della caserma dei Tolentini. I granatieri avevano piazzato nella strada una specie di spaccio dove vendevano a una folla avida tutti gli oggetti dell'arredamento e dell'equipaggiamento. A questa vista Toffoli non seppe contenere il suo sdegno. L'italiano è naturalmente eloquente, il veneziano è eloquente fra gli italiani. La collera ispirò felicemente Toffoli e gli parlò lungamente con le lacrime agli occhi. Ben presto i fucili carichi si abbassarono davanti a lui. I soldati ripresero i loro getti, le loro armi dalle mani dei compratori e tutta la caserma rientrò nell'ordine. Toffoli poté, tornando dai suoi colleghi, annunciare loro un nuovo successo. Tuttavia, questa doppia vittoria sulla rivolta era poco significativa e poco rassicurante. L'instabilità di queste truppe e la loro insubordinazione restavano un fatto acquisito cui era importante porre prontamente riparo. Era evidente che i soldati veneti non potevano essere trattenuti più a lungo lontano dai loro focolari e vennero quindi rinviati alle province che li reclamavano. Volutamente mi sono un po' diffusa sulle circostanze che hanno preceduto il provvedimento di congedo del piccolo esercito veneziano. Questo atto del governo repubblicano è tra quelli che sono stati più aspramente biasimati. È chiara, peraltro, la pressante necessità che gli impose di compierlo. Il problema che Venezia aveva creduto per un istante di poter risolvere con le proprie forze si ripresentava dunque di nuovo: dove trovare i soldati? La Lombardia contava sull'esercito piemontese per avere il tempo di costituire un esercito lombardo, ma la distanza non consentiva ai veneziani di trarre dalle truppe che stazionavano sulla riva sinistra del Mincio gli stessi vantaggi dei milanesi. E d'altra parte, la Costituzione repubblicana di Venezia rendeva quantomeno problematico l'intervento in suo favore di Re Carlo Alberto. Quanto alla formazione di un esercito regolare, era uno sforzo che la Repubblica non poteva imporsi. Glielo avessero consentito le sue risorse finanziarie, ne sarebbe pur sempre mancato il tempo. Non le rimaneva che cercare un punto d'appoggio nei corpi dei volontari, e appunto a quelli si rivolse. I volontari lombardi e le prime colonne giunte da Napoli vigilavano i valichi delle Alpi svizzere e tirolesi, dalla linea del lago di Como e Lecco sino a quella del lago d'Idro e di Garda. La terza e la quarta colonna di volontari napoletani si erano imbarcate sul Po, a Pavia, per dirigersi su Mantova o su Ferrara e incontrarvi il grande esercito napoletano che accorreva in soccorso dei veneziani. I volontari toscani, attraverso Piacenza, avevano raggiunto l'esercito piemontese nei pressi di Mantova. Quanto ai volontari romani, essi formavano con i due bei reggimenti di svizzeri pontifici e alcuni reggimenti di truppe regolari romane un corpo d'armata considerevole per il numero dei soldati e per il loro valore. L'eccellente disciplina degli svizzeri, la bellezza virile, l'ardore patriottico dei volontari, la stima di cui godeva il generale Durando, tutto cooperava a richiamare sul contingente romano la fiducia e le simpatie dei patrioti italiani. Appunto su questo esercito Venezia aveva concentrato ogni sua speranza, ma appena il generale Durando ebbe passato il Po, un ordine di Carlo Alberto giunse a informarlo della necessità per tutte le truppe impegnate nella guerra dell'indipendenza italiana di riconoscere un unico capo. Durando era così invitato a prendere ordini dal re del Piemonte e a eseguirli come ogni ufficiale esegue quelli del suo superiore. Svaniva da quel momento l'ultima speranza dei veneziani. Anche l'armata di Durando entrava a far parte dell'esercito piemontese, e se ci si fosse rivolti a lui, si poteva prevedere che avrebbe risposto come già Carlo Alberto aveva risposto agli inviati di Venezia. Il problema dell'invio di truppe in territorio veneziano, aveva detto il re, non è militare, bensì politico. Privata dell'appoggio del contingente romano, Venezia avrebbe potuto rivolgersi al contingente napoletano, ma la diserzione delle truppe comandate dal generale Pepe le chiuse subito anche questo spiraglio. Così, i 30.000 uomini circa che si dirigevano su Venezia e che sembravano destinati a rappresentare per questa città quel che Carlo Alberto e i soldati piemontesi rappresentavano per la Lombardia, neppure uno attraversò le lagune. La prima armata, comandata da Durando, passò agli ordini del re del Piemonte e tutti sanno che tipo di soccorso portò alla sventurata Vicenza. La seconda, al comando del generale Pepe, fece marcia indietro ancor prima di aver attraversato il grande fiume che separa l'Italia del nord dall'Italia centrale. Così il vecchio generale, illustre per le sue sventure, che era uscito dall'esilio nella speranza di condurre un giorno almeno le corti napoletane al combattimento, era rimasto solo più in fretta questa volta del consueto e solo raggiunse Venezia per offrirle, in mancanza di un esercito, il suo braccio e la sua matura esperienza. Venezia accolse con gratitudine lo sfortunato generale e lo pose a capo del piccolo esercito di cui poteva disporre. C'era qualcosa di nobile e di commovente nella risoluzione del generale Pepe, un uomo la cui vita era stata una sequenza di generosi progetti sempre giocati dalla fortuna, un uomo che prima di scendere nella tomba si era alzato in uno slancio supremo per ricadere vittima di un'ultima illusione. Tutti gli sforzi di Venezia per organizzare una forza militare capace di una resistenza efficace erano dunque falliti. ma le province non le davano atto del suo zelo sfortunato. Non cessavano di chiedere soldati e denaro. I rappresentanti della consulta costituita a Venezia indirizzavano ai loro committenti lagnanze senza fine sulla poca attenzione che il governo centrale aveva per le province e sulle maniere brusche e sdegnose del presidente. Le richieste di denaro si incrociavano da Venezia alle province e dalle province a Venezia. Questa, in qualità di capitale e di sede del potere centrale, era nel suo diritto quando avanzava la pretesa che le province le fornissero i mezzi per provvedere alla difesa comune. Ma le province si ritenevano autorizzate a serbare per se stesse le proprie risorse e quando presero la decisione di rifiutare il pagamento dell'imposta, Venezia, priva di ogni arma coercitiva, poté soltanto protestare. Questa flagrante violazione del patto solenne che legava le province alla capitale non portò alcun miglioramento alla situazione materiale delle province, che non potevano bastare a se stesse, e d'altra parte non possedevano gli ingranaggi amministrativi necessari per governarsi da sole. Così, anche dopo aver smesso di mandare denaro a Venezia, continuarono a chiederle soldati, munizioni, aiuti finanziari. Esse facevano pesare su Venezia la responsabilità dei mali che le minacciavano. Proclamando la Repubblica, ripetevano tramite i loro giornali e i loro rappresentanti, proclamando la Repubblica avete allontanato da noi il difensore della Lombardia, mettetevi dunque in cerca di altri alleati, di altre truppe, saremo noi le vittime della vostra imprudenza prima e della vostra ingratitudine e inettitudine poi. Chi ci aiuterà a respingere gli austriaci? A queste lagnanze reiterate, Venezia non aveva che una risposta da dare. La proclamazione della Repubblica non era stato un atto premeditato. La diffidenza ispirata dalla Repubblica veneziana al Piemonte e alla Lombardia neppure poteva essere prevista. Era di Venezia la colpa della scomparsa delle truppe romane e napoletane. Non soffriva quanto e più delle province. Non era forse altrettanto priva di difensori, non avendo la guarnigione che pochi corpi distaccati di volontari. Ma era inutile difendersi e giustificarsi. Le province volevano truppe e Venezia non poteva offrirne. L'epilogo di questo penoso conflitto non doveva farsi attendere. La Lombardia aveva attuato la sua fusione con il Piemonte nei primi giorni di giugno, senza neanche prevenire o consultare la capitale che pur si erano date. Vicenza, Padova, Rovigo e Treviso inviarono deputati al quartier generale di Carlo Alberto per offrirgli la sovranità del loro territorio e chiedergli di considerarle da allora in poi come parte integrante dei suoi stati. Essi aprirono poi i registri delle parrocchie, a imitazione di quel che si era fatto a Milano. Soltanto dopo il ritorno degli inviati e lo spoglio dei registri delle parrocchie, le quattro province si rammentarono di Venezia. Le rivolsero allora un messaggio per comunicarle la propria risoluzione e per esortarla a seguire il loro esempio. Ogni popolazione ha senza dubbio il diritto di pronunciarsi sul suo destino e nel caso specifico l'esercizio di questo diritto era prova di saggezza, ma Venezia meritava pur qualche riguardo e l'atto di fusione delle quattro province con il Piemonte non avrebbe perso nulla della sua importanza se fosse stato preceduto, anziché seguito, da una comunicazione formale alla capitale. Venezia aveva il diritto di aspettarsi che le province si rivolgessero a lei prima di prendere una determinazione importante e le dicessero: non possiamo permanere nell'abbandono in cui voi ci lasciate, tutte insieme uniamoci al Piemonte, oppure, se per quel che vi riguarda siete contrari a questo passo, non biasimateci se per parte nostra lo compiamo. Venezia non levò né lagnanze né recriminazioni. La sua posizione, scomoda nel presente, non offriva alcuna sicurezza per l'avvenire. L'abbandono delle province la privava improvvisamente di ogni risorsa. Nel fatto, la città poteva far fronte ai suoi bisogni soltanto grazie al Levante e all'Adriatico e grazie alle province della terraferma. Ma le navi austriache, che preannunciavano il blocco incrociando al largo, avevano quasi distrutto il suo commercio marittimo e ora, di colpo, le veniva meno anche l'entroterra. Eppure, proprio per soddisfarne le esigenze, Venezia si era spogliata delle migliori armi dell'arsenale e della maggior parte delle somme versate all'erario. Per sovvenire ai bisogni sempre crescenti delle province, Venezia aveva aperto un prestito sotto forma di aumento di imposte e aveva versato la propria parte. Venuto il turno delle province, esse si erano contentate di dichiarare che, essendo lo scopo del prestito quello di aiutarle, per loro era più celere e semplice tenersi l'ammontare dell'imposta e impiegarlo direttamente per il fine indicato da Venezia. Siccome questo atto di indipendenza non aveva comportato la separazione finanziaria immediata e completa delle province e della capitale, Venezia aveva continuato a spesarle, mentre i proventi provinciali non arrivavano più all'erario. Nella nuova posizione in cui la poneva la brusca risoluzione delle province, Venezia si vide costretta ad aprire un secondo prestito e a rilasciare ai suoi creditori obbligazioni pagabili al portatore. Le decisioni della terraferma ebbero peraltro l'effetto di condurre nelle sue lagune un numero maggiore di volontari, scossi dalla sorte della sfortunata città. Si videro accorrere siciliani, comandati dal giovane e valoroso Lamasa, uno degli eroi di Palermo, napoletani che si raccolsero intorno al generale Pepe, romani stanchi delle lentezze strane del generale Durando, toscani, milanesi della Guardia Nazionale di Milano che preferivano battersi a Venezia piuttosto che montare la sentinella al palazzo del governo provvisorio. Tutti questi corpi formavano una guarnigione da 15 a 20.000 uomini, sufficiente alla difesa della città. La situazione di Venezia non era disperata, ma era molto grave. All'annuncio dato dalle province si rispose con la convocazione di un'assemblea generale per il 18 giugno. Stava a questa assemblea decidere l'avvenire di Venezia. Rimaneva soltanto da attendere il 18 giugno e Venezia rivolgeva quel giorno tutti i suoi problemi quando disastri imprevisti vennero a mutare in modo grave la situazione su cui avrebbe dovuto pronunciarsi l'Assemblea nazionale.